Ad alta voce, Elia Shilton legge Il soccombente di Thomas Bernard. Se ora lei, la padrona della locanda, si fosse recata a Vienna, dissi, ne sarebbe rimasta inorridita. Era talmente cambiata in peggio quella città, dissi, scomparsa ogni traccia di grandezza, non vi era rimasta che la feccia dell'umanità, dissi, la cosa migliore era tenersi lontano da tutto, sottrarsi a tutto, dissi. Di averla abbandonata già da anni per recarmi a Madrid non l'avevo mai rimpianto, nemmeno per un attimo, dissi. Se invece non abbiamo la possibilità di andarcene e siamo costretti a rimanere in un paese ottuso come l'Austria e in una città ottusa come Vienna, non possiamo far altro che crepare. Non possiamo di sicuro sopravvivere a lungo, dissi. A Vienna avevo avuto 2 giorni per pensare a Wertheimer, dissi, e poi durante il viaggio per Coira, la notte prima del funerale. Lei volle sapere quante persone erano state presenti al funerale di Wertheimer. Solo la Duttweiler, suo marito ed io, dissi, e in più naturalmente gli uomini delle pompe funebri, dissi. Tutto era finito in meno di 20 minuti. La padrona della locanda disse che Wertheimer aveva sempre detto che nel caso fosse morto prima di lei le avrebbe lasciato una collana preziosa, disse, che era stata di sua nonna. Ma certo Wertheimer nel suo testamento non l'aveva ricordata, sostenne, ed io pensai che certamente Wertheimer non aveva fatto testamento. Comunque, se Wertheimer le ha promesso una collana, disse alla padrona della locanda, è certo che lei questa collana l'avrà. Wertheimer di tanto in tanto aveva pernottato da lei, disse arrossendo in volto, perché lui, come spesso era accaduto, venendo da Vienna andava prima da lei per passarvi la notte nel timore di trovarsi a Traich, dato che molte volte era giunto da Vienna a Traich senza avvertire e a Traich non avevano acceso il riscaldamento. Quei tipi che ultimamente Wertheimer aveva fatto venire a Traich andavano in giro tutti quanti vestiti in maniera assurda, come attori, disse, sembravano venuti dal circo. Da lei non avevano consumato mai niente, tutte le bevande le prendevano all'emporio lì vicino. Tutta gente che lo ha solo sfruttato, disse la padrona della locanda, gente che a Traich ha vissuto a sue spese per settimane intere, mettendo tutto a soqquadro e schiamazzando ogni notte fino alle prime ore dell'alba. Che razza di gentaglia, disse. Erano rimasti a Traich per settimane intere in assenza di Wertheimer, il quale si era fatto vedere solo qualche giorno prima di partire per Coir. Spesso Wertheimer aveva detto alla padrona della locanda che intendeva recarsi a Zizers in visita dalla sorella e dal cognato, ma poi questo viaggio lo rinviava sempre. Aveva scritto a Zizers molte lettere, lettere alla sorella, nelle quali le ingiungeva di tornare da lui a Traich, di separarsi da suo marito, di cui lui, Wertheimer, non aveva mai avuto la minima simpatia, disse la padrona della locanda. Non aveva mai avuto stima di quell'essere abominevole. Così disse, con una tipica espressione di Wertheimer. Ma la sorella, disse, non aveva mai risposto alle sue lettere. Non c'è persona al mondo che noi abbiamo il diritto di legare a noi contro la sua volontà, dissi io. Se questa persona non vuole legarsi a noi, noi da parte nostra abbiamo il dovere di lasciarla in pace, dissi. Wertheimer ha voluto legare a sé sua sorella per sempre, per l'eternità, dissi, e in questo ha sbagliato. Facendo ammattire sua sorella è diventato pazzo lui stesso, dissi, perché toglierci la vita è proprio una pazzia. Che ne sarà adesso di tutto il denaro che ha lasciato Wertheimer? Ha domandato alla padrona della locanda. Io dissi che non lo sapevo, ma poi aggiunsi che certamente lo aveva ereditato la sorella. Quando si tratta di denaro, piove sempre sul bagnato, disse la padrona della locanda. Dopodiché chiese altre informazioni del funerale, ma io non sapevo più che cosa raccontarle, perché del funerale di Wertheimer avevo già detto più o meno tutto. La padrona della locanda volle sapere se si era trattato di un funerale ebraico. Io dissi no, non è stato affatto un funerale ebraico. Wertheimer è stato messo sottoterra rapidissimamente, dissi. Tutto si è svolto talmente in fretta che quasi non sono riuscito a vederlo. Dopo il funerale i Duttweiler mi hanno invitato a pranzo, dissi, ma io ho declinato l'invito, con loro non ci volevo stare. Comunque ho sbagliato, dissi, avrei dovuto accettare, sarei dovuto andare con loro perché tutto a un tratto mi sono trovato da solo senza sapere che fare, dissi. Coira è una città orribile, dissi, tetra quant'altre mai. Wertheimer è stato sepolto a Coira solo provvisoriamente, dissi ad un tratto. Lo vogliono seppellire definitivamente a Vienna, al cimitero di Döbling, dissi, nella tomba di famiglia. La padrona della locanda si alzò in piedi e disse che secondo lei l'aria tiepida che veniva da fuori avrebbe scaldato la stanza fino a sera. Dunque potevo stare tranquillo. Il freddo invernale è rimasto qua dentro, disse. In effetti mi venne paura di buscarmi un raffreddore all'idea di dover pernottare in quella stanza dove avevo passato tante notti insonni. Ma in un'altra locanda non ci potevo andare perché i casi sono due, pensai. O è troppo lontana o è ancor più primitiva di questa. Naturalmente in passato non avevo tutte queste pretese, pensai. Non ero cagionevole come adesso e pensai che ad ogni buon conto, prima di mettermi a letto, avrei chiesto alla padrona della locanda due coperte di lana in più. Domandai alla padrona della locanda se potevo avere un tè caldo prima di andare a Traich, al che lei scese subito in cucina per fare un tè caldo. Io, nell'attesa, disfeci la mia borsa e appesi nell'armadio l'abito grigio scuro, l'abito per così dire da funerale che avevo portato con me a Coira. Questi scipiti angeli di Raffaello si ritrovano continuamente nelle stanze da letto, pensai mentre stavo guardando, appeso alla parete, un angelo di Raffaello tutto sbiadito che proprio per questo era ridiventato sopportabile. Mi ricordai che qui verso le 5 del mattino venivo solitamente svegliato dai maiali che accorrevano al truogolo, nonché dalla padrona della locanda che sbatteva la porta con irriguardosa stupidità. È più facile per noi sopportare qualsiasi cosa, pensai, se sappiamo in anticipo quel che ci aspetta. Nello specchio in cui per vedermi dovevo star chino, scoprii che ad un tratto era ricomparso quell'erpete sulla tempia che era scomparso in seguito a un trattamento di varie settimane con una pomata cinese, e questa constatazione mi mise in allarme. Subito pensai a un brutto male taciutomi dal medico, il quale mi avrebbe dato la pomata cinese, che in realtà, come avevo constatato, non serviva a nulla, all'unico scopo di tenermi tranquillo. Un erpete simile può essere certamente il primo segno di un'affezione morbosa, grave e maligna, pensai, e mi girai di scatto. Il fatto di essere sceso ad Attnang-Puchheim e di aver raggiunto Vancam per poi recarmi a Traich mi parve ad un tratto completamente assurdo. La sosta a Vancam, questo paese orribile, me la potevo proprio risparmiare, pensai. Che bisogno avevo, pensai, di venir qui per trovarmi ad un tratto in questa stanza fredda e ammuffita e aver paura della notte, una notte che non facevo fatica a immaginare con tutte le sue atrocità. Sarebbe stato meglio se fossi rimasto a Vienna e non avessi reagito affatto al telegramma dei Duttweiler e dunque non fossi partito per Coira. Mi dissi, meglio che mettermi in viaggio per Coira, scendere ad Attnang-Puchheim e poi venire a Vancam con l'intento di rivedere ancora una volta Traich, che in fondo, mi dissi, non mi interessava affatto. Dato che coi Duttweiler non ho scambiato neppure una parola e dato che non ho provato la benché minima emozione neanche davanti alla fossa di Wertheimer, pensai, tutta questa tortura avrei potuto benissimo evitarla, non c'era nessun bisogno che me la collassi. Provavo un senso di repulsione per il modo in cui mi ero comportato. D'altro canto mi domandai di che cosa mai avrei dovuto discutere con la sorella di Wertheimer. Per non parlare del marito di lei, del quale non mi importava assolutamente nulla e dal quale in effetti mi sono subito sentito respinto, più ancora dopo averlo incontrato di persona che non in seguito alle descrizioni di Wertheimer, che già lo presentavano in una luce a dir poco sfavorevole. È chiaro che con gente come i Duttweiler io non ci parlo. Avevo subito pensato, vedendo i Duttweiler per la prima volta. E pensare che proprio un tipo come Duttweiler ha indotto la Wertheimer a lasciare suo fratello e ad andarsene in Svizzera, proprio un tipo ripugnante come Duttweiler. Di nuovo mi guardai allo specchio e stabilii che l'erpete non l'avevo più soltanto sulla tempia destra, dato che si era piazzato anche sulla nuca. È probabile che ora la Duttweiler decida di tornare a Vienna, pensai. Suo fratello è morto, la casa del Kohlmarkt si è resa libera per lei, la Svizzera non le serve più. La casa di Vienna è sua e Traich altrettanto, e sono suoi anche i mobili della casa del Kohlmarkt, mobili che lei amava mentre suo fratello, lo ha sempre detto lui stesso, li odiava. Adesso può viverci bene con lo svizzero a Zizers, pensai, dato che in ogni momento può decidere di tornare a Vienna o a Traich. Il virtuoso giace nel cimitero di Coira, nei pressi del Monte dei Rifiuti, pensai per un istante. I genitori di Wertheimer erano ancora stati tumulati secondo il rito ebraico, pensai. Negli ultimi anni lo stesso Wertheimer si era sempre definito come un ateo. La cripta dei Wertheimer nel cimitero di Döbling, che si trovava subito accanto alla cosiddetta cripta dei Lieben e alla tomba di Theodor Herzl, io stesso l'avevo visitata molte volte in compagnia di Wertheimer, il quale non si era mai irritato per il fatto che l'enorme blocco di granito nel quale erano scolpiti i nomi dei Wertheimer sepolti nella cripta Wertheimer fosse stato spostato nel corso del tempo già di 10 o 20 centimetri da un faggio cresciuto nella cripta. Spesso sua sorella aveva cercato di convincerlo a far rimuovere quel faggio e a rimettere al suo posto il blocco di granito, ma lui non solo non era infastidito dal fatto che il faggio fosse cresciuto indisturbato nella cripta e fuoriuscendo da essa avesse spostato il blocco di granito, ma al contrario, ogni volta che si trovava davanti alla cripta guardava con ammirazione quel faggio che aveva ulteriormente spostato il blocco di granito. Adesso la sorella farà togliere il faggio dalla cripta e rimettere il blocco di granito in posizione verticale, ma ancor prima farà traslare la salma di Wertheimer da Coira a Vienna e la tumulerà nella cripta di famiglia, pensai. Wertheimer è stato il più appassionato visitatore di cimiteri che io abbia mai conosciuto, ancora più appassionato di quanto sia io stesso, pensai. Sullo sportello dell'armadio, con l'indice della mano destra, scrissi nella polvere una grande W. In quella circostanza mi venne in mente Dessalbrunn. Per un attimo fui sorpreso dall'idea sentimentale che forse tutto sommato sarei potuto andare fino a Dessalbrunn, ma subito dopo uccisi me questa idea. Siccome volevo essere coerente, no, dissi a me stesso, a Dessalbrunn non ci vado, non andrò a Dessalbrunn per i prossimi 5 o 6 anni. Una simile visita a Dessalbrunn mi fiaccherebbe di sicuro per anni e anni, dissi a me stesso. Una visita a Dessalbrunn non me la posso permettere. Il paesaggio che ora vedevo dalla finestra era identico allo squallido, ammorbante paesaggio di Dässelbrunn che conoscevo alla perfezione e che di colpo pochi anni prima mi era diventato odioso. Se non avessi deciso di andarmene da Dässelbrunn, dissi a me stesso, ora sarei finito, non sarei più in vita, sarei finito, morto a poco, prima di Glenn e prima di Wertheimer. Questo devo proprio dirlo, perché il paesaggio di Dässelbrunn e dintorni è un paesaggio che fa morire a poco, come del resto il paesaggio che si vede dalla finestra di Vancam, un paesaggio da cui tutti si sentono minacciati e lentamente oppressi e in nessun caso protetti e confortati. Noi non possiamo sceglierci il nostro luogo di nascita, pensai. Tuttavia da questo luogo di nascita possiamo andarcene se esso rappresenta per noi una minaccia di oppressione. Anche se andar via e scappare dal luogo in cui siamo nati ci toglie la vita se non riusciamo a cogliere il momento giusto per andar via e scappare. Io sono stato fortunato e sono andato via nel momento giusto, dissi a me stesso. E alla fin fine me ne sono anche andato da Vienna, perché anche Vienna minacciava di opprimermi e soffocarmi. Comunque lo devo a un conto in banca di mio padre, se sono ancora in vita, se ho ancora il permesso di esistere, come ad un tratto dissi a me stesso. Non è una zona vivificante, mi dissi. Non è un paesaggio riposante, non sono persone gradevoli. Mi aspettano al varco, pensai. Mi fanno stare in ansia, tentano di abbindolarmi, mai in questa zona mi sono sentito al sicuro, pensai, afflitto da continue malattie e infine quasi ucciso dall'insonnia. Nel momento in cui gli uomini sono arrivati da Altmünster e hanno ritirato lo Stanway, che respiro di sollievo, pensai, con che senso di improvvisa liberazione camminavo su e giù per Dässelbrunn. Non ho certo rinunciato all'arte e a tutto ciò che questa parola significa, regalando lo Steinway alla figlia del maestro di Altmünster, pensai. Lo Steinway esposto ai maltrattamenti del maestro, esposto alla ottusità della figlia del maestro, pensai. Se avessi detto al maestro quanto valeva davvero il mio Steinway, lui si sarebbe spaventato, pensai. Il maestro non aveva la minima idea del valore di quello strumento. Già quando avevo ordinato il trasporto dello Steinway da Vienna a Dässelbrunn, sapevo che lo Steinway non sarebbe rimasto a Dässelbrunn per molto tempo, ma naturalmente non supponevo affatto che in seguito lo avrei regalato alla figlia del maestro, pensai. Fino a quando ho avuto lo Steinway non sono stato autonomo nei miei scritti, non libero come dal momento in cui lo Steinway è uscito per sempre dalla mia casa. Ho dovuto separarmi dallo Steinway per poter scrivere. E anche se, a essere sincero, avevo scritto per 14 anni, si trattava in effetti di cose più o meno inutilizzabili, per l'unica ragione che non mi ero separato dal mio Steinway. Non appena lo Steinway è uscito di casa, ho cominciato a scrivere meglio, pensai. Nella Calle del Prado ho in effetti seguitato a pensare che lo Steinway si trovava a Vienna o a Dässelbrunn, e che a causa di ciò non riuscivo a scrivere niente di meglio di quei miei abbozzi, che in ultima analisi sono sempre stati un vero fallimento. Non appena scacciato lo Steinway, subito, fin dal primo momento, pensai, ho scritto in un modo diverso. Questo non significa che rinunciando allo Steinway ero disposto a rinunciare alla musica, pensai, al contrario. Ma la musica non ebbe più su di me quel potere devastante che aveva prima. È semplice, non mi fece più male, pensai. Se guardiamo intensamente questo paesaggio, ci assale l'angoscia. In questo paesaggio non vogliamo ritornare per nessun motivo. Tutto è grigio, sempre soltanto grigio, e la vista degli esseri umani ci deprime incessantemente. Se tornassi a Dässelbrunn, starei tutto il tempo rintanato nella mia stanza e mai mi verrebbe in mente un'idea sensata, pensai, e diventerei come qui sono tutti. Mi basta guardare in faccia la padrona della locanda, una persona che non riesce a tirarsi fuori dalla viltà e dall'infamia, pensai, distrutta com'è dalla natura che da queste parti domina ogni cosa. In questo perfido paesaggio sarei finito per sempre. Ma in verità a Dässelbrunn non ci sarei mai dovuto andare, pensai. L'eredità di Dässelbrunn non avrei mai dovuto accettarla, avrei potuto benissimo rinunciarci e in ogni caso l'ho mollata, pensai. In origine Dässelbrunn fu costruita come casa padronale da un mio prozio, che era stato direttore della cartiera, il quale la volle con molte stanze per i suoi numerosi figli. Sicuro, averla semplicemente mollata è stata la mia salvezza, pensai. Inizialmente a Dässelbrunn coi genitori sempre e solo d'estate, poi a scuola per anni e anni a Dässelbrunn e a Vancam, pensai, poi al ginnasio di Salisburgo, poi al Mozarteum, per un anno soltanto alla Wiener Akademie, pensai, poi ancora al Mozarteum, poi di nuovo a Vienna e infine, pensando di ritirarmici per sempre con le mie ambizioni intellettuali, a Dässelbrunn, dove ben presto ho avuto la bruttissima sensazione di essere finito in un vicolo cieco. La carriera del virtuoso del pianoforte come scampo e fuga, spinta comunque alla massima perfezione, pensai. Al culmine, come posso dire, delle mie possibilità, ho abbandonato, gettato via tutto, questo devo dirlo. Mi sono dato un colpo in testa. Ho regalato lo Steinway. Se qui piove incessantemente per 6 o 7 settimane e la gente diventa pazza in questa pioggia incessante, pensai, per non togliersi la vita ci vuol davvero una gran forza di volontà. Ma la metà di tutti quelli che vivono qui prima o poi in realtà la vita se la tolgono. Non vanno in rovina per conto loro, come si suol dire. Questi non hanno altro che il cattolicesimo e il Partito Socialista, le due istituzioni più ripugnanti del nostro tempo. A Madrid esco di casa almeno una volta al giorno per mangiare, pensai, mentre qui, preso da un'accidia crescente e inguaribile, non sarei mai uscito di casa. Eppure non ho mai pensato seriamente di vendere la proprietà. Elucubrato, sì, negli ultimi 2 anni, per esempio, come ovvio, però, senza costrutto. Nello stesso tempo, pensai, non ho mai assicurato a nessun eventuale acquirente di non vendere Dässelbrunn. Senza un agente immobiliare la vendita non è possibile e gli agenti immobiliari mi fanno riprezzo, pensai. Una casa come Dässelbrunn possiamo benissimo abbandonarla per anni, pensai, lasciarla andare in malora, pensai, perché no? A Dässelbrunn non ci vado in ogni caso, pensai. Ad alta voce, Elia Shilton ha letto Il soccombente di Thomas Bernhard. A cura di Anna Antonelli e Fabiana Carobolante con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per ascoltare e scaricare il programma radio3.rai.it.